impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Pierluigi Coppo, a tavola con stile, di Anna Marino. Per me una tavola imbandita è quando, bene, quando uno si siede e si sente a suo agio e vede degli belli oggetti messi con cura e con stile. Sedersi a tavola con una tavola bene apparecchiata risolve già metà dei problemi. È come bere un vino, secondo me, in un bel bicchiere. Pierluigi Coppo nasce nel 1948 a Casale Monferrato in una famiglia di piccoli imprenditori nel campo della meccanica e della ceramica nella zona di Casale Monferrato. Insieme al fratello Franco ha dato vita a un gruppo leader mondiale negli articoli di design per la tavola di prestigio. Sentiamo quali sono gli albori della storia di famiglia. Mio padre aveva un'officina, un'azienda metalmeccanica piccolina e poi nella fine anni 70 abbiamo, tra virgolette, rilevato mio fratello ed io questa attività e da lì siamo partiti. Poi abbiamo cambiato nome, abbiamo chiamata Officine Meccaniche Giovanni Coppo, perché mio papà si chiamava purtroppo Giovanni, e da lì siamo partiti. Diciamo che con mio papà, che io stimo moltissimo, mi ha dato proprio uno stile di vita e di pensiero e di comportamento. Massima correttezza con tutti, ma un esempio di vita, ma questo sempre. Certo. Massima correttezza, senza trucchi, senza. Mio papà era un uomo molto leale, molto posto. Questo è stato un po' il messaggio. Anche la storia di Pierluigi Coppo è un'educazione all'azienda. Completa i suoi studi a Milano con laurea nel 1972 a pieni voti all'Università Bocconi, con tesi in statistica. Poi frequenta un master di 2 anni nel Financial Management con programma di studio e lavoro nella General Electric italiana, allora presieduta da Paolo Fresco. Nel 1975 diventa responsabile amministrativo e del personale nella società di famiglia SIC Ceramica S.p.A. Nel 1977 ristruttura con il fratello Franco la società di famiglia, Officine Meccaniche Giovanni Coppo di Milano. Inizia così l'avventura industriale in proprio con il fratello Franco. Beh, subito dopo aver preso l'attività di nostro papà, si è verificata un'occasione di acquisizione della Paderno. Questa azienda è andata male, però aveva un marchio importantissimo in Italia, si chiamava Alluminio Paderno. E lavorava il metallo ed era questo che a noi interessava. Per puro caso nel settore della cucina, perché faceva pentole, c'era un motto Alluminio Paderno, pentolame moderno. Ecco. E quindi abbiamo rilevato questa in tribunale. Allora il giudice aveva posto come obbligo per l'acquisizione dei beni di questo Alluminio Paderno l'assunzione dei dipendenti, e nessuno voleva prendersi sto carico dei dipendenti. Noi invece abbiamo detto lo prendiamo, e perché pensavamo di saper gestire questo problema sindacale, ed infatti è stato positivo perché abbiamo potuto prendere le condizioni buone, e da lì è partita un po' la nostra storia. All'inizio molto difficile perché non conoscevamo bene il mercato, però avevamo un bel marchio, Alluminio Paderno. Paderno era molto conosciuto nel settore della distribuzione italiana. La ceramica Pozzi viene, è una storia limitata, breve. L'Ambrogio Pozzi era un designer della Rosenthal, un grosso designer italiano, e eravamo in un pool con altri industriali della ceramica. Si trattava di salvare questa ceramica che poi non siamo riusciti. Noi eravamo una partecipazione minima, avevamo il 20% di questa azienda, ma poi non siamo riusciti. Però ripeto, noi non avevamo paura di assumere le partecipazioni o industrie, perché era quello il nostro mestiere, insomma. E quindi avevamo valutato insieme ad altri, insieme ai miei zii di Casale Monferrato, ecco, che aveva un'azienda ceramica, la SIC Ceramica allora, e di fare questo investimento, e l'abbiamo fatto, che però poi dopo eravamo troppi soci, non siamo riusciti a rimetterlo in sesto. Allora, San Bonnet si arriva a questo modo che la Paderno è soprattutto attiva nel campo delle forniture per cucine, nel settore alberghiero, nel settore delle collettività, comunità. E ho sempre cercato di dare un grosso impulso alle esportazioni. Quando facevamo le fiere, che io viaggiavo allora e andavo a visitare le fiere in Asia o in America, in Europa, vedevo sempre lo stand della San Bonnet, che era quasi l'unica italiana. E allora si faceva, li conoscevo, perché essendo all'estero, magari a Singapore, a Hong Kong, diceva, sei italiano, come va, come non va, eccetera. E avevo già proposto allora, ma facciamo qualche cosa insieme, tu fai la cucina, io faccio la cucina, tu fai la tavola. Però parlo degli anni 90, la Sabonè in quel momento, la famiglia Sabonè era già uscita dal settore, fine anni 80, e c'erano degli investitori, finanziatori, con grossi continui cambiamenti nel capitale, perché queste aziende sono difficili da gestire. Poi a un certo punto è stata acquisita da un francese, perché questi soci non riuscivano a mettersi d'accordo. Questo francese ha comprato, quindi ha fatto un'offerta, ha acquisito tutto il capitale. E lì ci siamo di nuovo messi in contatto, però ha detto, questo francese ha detto, ha provato a gestirla da solo, poi non è riuscita, fin quando un giorno mi chiama al telefono e mi dice, senta, vorrei parlarle, questo nel 97, so che ero a Francoforte, dice, avevo capito immediatamente l'obiettivo. Ci siamo seduti a un tavolo e nel giro di un mese abbiamo comprato, perché io ero convinto che con la nostra forza vendite all'estero, come Paderno, aggiungendo la Sabonè, avevamo già fatto allora un pacchetto importante di cucina e tavola, sempre lavorando sempre l'acciaio, perché questo è il problema, perché le pentole sono fatte in acciaio. E quindi abbiamo acquisito questa azienda, che era, dopo 7-8 anni di management che andava e veniva senza direzione, era come la Rosenthal più o meno di adesso. La Béart, che è un'azienda francese, una concorrente della Sabonè, i signori Béart, ecco, qui ho conosciuto la famiglia. Non avevano detto, noi era una concorrente, hanno detto, una bellissima azienda, Montreux tra l'altro, e abbiamo fatto una trattativa un po' lunga, poi alla fine abbiamo acquisito, e poi abbiamo subito integrato all'interno della Sabonè e abbiamo ottenuto la distribuzione per la Svizzera. È un'azienda che poi abbiamo subito smantellato sostanzialmente. In tutti questi passaggi ha visto esempi di consegna di testimone tra membri della stessa famiglia imprenditoriale, i cosiddetti passaggi generazionali, gestiti in diversi modi. Per questo può spiegare se secondo lui esista una ricetta oppure no. Parlando della Sabonè, la Sabonè è un'azienda, mi dicono, che ha più di 200 anni di anzianità. Nell'arco di questi 200 anni la famiglia è andata avanti, si è ingrossata, cioè gli eredi e la gente che voleva poi interessarsi nella gestione è andata avanti, fin quando non ce l'hanno più fatta e ha venduto il secondo, eccetera, è crollato il castello e hanno dovuto vendere. Alla fine poi l'azienda poi non era, probabilmente non, adesso io non lo so, però non aveva più risultati. La famiglia Béart non aveva successori, quindi ha venduto, e i Rosenthal, che era quotato in borsa, eccetera, anche loro addirittura mi dicevano, ho conosciuto il figlio di Philipp Rosenthal, che è un personaggio mitico veramente in Germania. Philipp Rosenthal è mancato da qualche anno, ma era un personaggio con delle grossissime conoscenze, e ho visto dalle fotografie sempre a contatto con il primo ministro di diversi stati, quindi un uomo molto presente sulla scena anche politica, perché poi si è messo anche in politica. Però lui alla fine, il figlio, mi ha detto, guardi che io, poi mio papà aveva il 3% dell'azienda e l'aveva già persa nel tempo e quindi anche questa è un'azienda di diverse generazioni, quindi noi siamo all'inizio. Ecco, il passaggio generazionale è senza dubbio un grossissimo problema questo qua, perché sono pochissime nel mondo le aziende che resistono e mantengono la proprietà per decenni o per secoli, sono proprio poche. Sappiamo che c'è questo problema, però non è che l'abbiamo affrontato con determinazione ancora tra me e mio fratello. Abbiamo dei figli, però è un passaggio, è un momento delicatissimo, veramente delicatissimo. Forse dopo la terza generazione, seconda o terza generazione, che diventa acuto. Sposato con Eleonora e padre di due figli, Giovanni di 24 anni, laureato in Bocconi, e Letizia di 19 anni, futuro architetto, vive a Milano. Tra lavoro e famiglia ci sono anche gli interessi personali e gli hobby. È infatti appassionato di vela. Passa le vacanze estive navigando con il suo marinaio e la moglie Eleonora nelle acque dell'Egeo. Il bilanciamento tra vita e lavoro è un fattore chiave nella sua vita. Il bilanciamento dipende dai momenti anche in cui uno si trova. Quando adesso in questo periodo è chiaro che posso dire ho solo il lavoro nella testa, però ci sono stati periodi di di molle, diciamo, di tranquillità, dove uno lavora anche, cerca anche di stare meno, perché il problema nostro qual è, di nostri imprenditori, di queste medie, piccole e medie aziende, perché tutto sommato è quello di lasciare lavorare anche i propri collaboratori e di non essere sempre presenti col fiato sul collo ai propri collaboratori, perché altrimenti non danno quello che possono dare. Quindi bisogna imporsi di uscire dall'ufficio, ecco, tra le altre cose. Quindi va a momenti, ci sono dei momenti in cui mi sono preso 3 mesi di vacanza proprio per andare in giro per il Mediterraneo in vela. Io vado in vela volentieri, e ci sono dei momenti invece come quest'anno, che al 1° agosto mi sono trasferito in Germania e sono rimasto lì, dal 1° agosto sono in Germania. Dipende dai momenti, ci sono dei momenti in cui uno è molto impegnato perché ha qualche progetto da portare avanti, e allora si dedica con tutto il tempo possibile, tenendo conto anche che uno deve tagliare un po' di tempo per la propria famiglia, e i propri figli ormai stanno andando per conto loro. Il presente e il futuro dell'azienda hanno una particolarità: la sfida. Lo dimostra la storia dei due fratelli Coppo, Franco e Pierluigi, specialisti nel risanare aziende in crisi e chiamati oggi alla loro terza grande sfida imprenditoriale, dopo aver rilevato nel 1979, in situazione di fallimento, prima la Paderno, divenuta poi leader mondiale nel pentolame professionale, poi Saint-Bonnet nel 1997, anch'essa rilevata in fallimento e oggi risanata e redditiva, e infine la tedesca Rosenthal, rilevata anch'essa in fallimento. La vedo molto impegnativa, ma ci sono tutte le premesse per riuscire ad avere un esito positivo. E l'azienda è molto grande, è molto radicata sul territorio, ma anche ramificata anche in tutto il mondo, perché abbiamo diverse filiali, però c'è tutta una squadra di manager che ultimamente c'è stato un ricambio, insomma può andare ancora bene. Ecco. Noi dal punto di vista personale abbiamo queste, diciamo, assomiglia moltissimo alla Saint-Bonnet, ha gli stessi problemi sostanzialmente che aveva la Saint-Bonnet quando l'abbiamo presa, quindi non è mai tutto uguale, non c'è mai la fotocopia di qualcosa, però diciamo che abbiamo le idee chiare, io sono molto tranquillo.